10 aprile, venerdì, venerdì di passione per essere più precisi, venerdì di passione nella settimana di una Pasqua senza resurrezione, senza alcuna intenzione sacrilega. Da ateo quale io sono, penso alla condizione nella quale si trova la società, gli umani, in questo periodo, con un sentimento di sospensione, come chiedendosi se accadrà di nuovo quel che è accaduto nel passato, se nuovamente potremo baciare sulle labbra una persona che abbiamo conosciuto da 30 minuti, se potremo tornare a compiere gesti che oggi appaiono temerari, inaccettabili, ma ecco, è questo sentimento della sospensione che mi tormenta in un certo qual modo. Forse il solo pensiero che mi confonde è questo, del non sapere in che misura torneremo. E quindi ripropongo i versi di Cavalcanti che già avevo letto qualche giorno fa, per poi proporre la lettura del mercoledì delle ceneri di Thomas Stearns Eliot. Cavalcanti, lo ricordiamo tutti, dice: perché io non spero di tornar giammai ballatetta in Toscana, vai tu leggera e piana, dritta alla donna mia, che per sua cortesia ti farà molto onore. E Eliot, che spesso pervezzo riprendeva versi dei poeti italiani dell'epoca trecentesca, duecentesca, scrive il suo Ash Wednesday partendo proprio con una evidente citazione cavalcantiana. Because I do not hope to turn again, because I do not hope, because I do not hope to turn, perché io non spero di ritornare, perché io non spero più di ritornare, desiderando di questo il talento e dell'altro lo scopo, non posso più sforzarmi di raggiungere simili cose, perché l'aquila antica dovrebbe spalancare le sue ali, perché dovrei rimpiangere la svanita potenza del regno consueto, poiché non spero più di conoscere la gloria incerta dell'ora positiva, poiché non penso più, poiché ormai so di non poter conoscere l'unica vera potenza transitoria, poiché non posso bere là dove gli alberi fioriscono e le sorgenti sgorgano, perché non c'è più nulla, poiché ora so che il tempo è sempre il tempo e che lo spazio è sempre ed è soltanto spazio e che ciò che è reale lo è solo per un tempo e per un solo spazio, godo che quelle cose siano come sono e rinuncio a quel viso benedetto e rinuncio alla voce, poiché non posso sperare di tornare ancora, di conseguenza godo, dovendo costruire qualche cosa di cui allietarmi, e prego Dio che abbia pietà di noi e prego di poter dimenticare queste cose che troppo discuto con me stesso e troppo spiego, poiché non spero più di ritornare. Queste parole possano rispondere di ciò che è fatto e non si farà più. Verso di noi il giudizio non sia troppo severo. E poi che queste ali più non sono ali, atte a volare, ma soltanto piume che battono nell'aria, l'aria che ora è limitata e secca, più limitata e secca della volontà, insegnaci a aver cura e a non curare, insegni e a starcene quieti. Prega per noi peccatori ora e nell'ora della nostra morte. Prega per noi ora e nell'ora della nostra morte. Eliot, mercoledì delle ceneri. È come se noi immaginassimo il futuro pensando al passato. In fondo, nella attesa cristiana della Pasqua, della resurrezione, vi è un costante guardare al futuro pensando al passato. Non è certo mia intenzione giudicare, però se posso permettermi un salto logico, storico, vorrei assimilare, vorrei cogliere l'analogia fra questa attesa cristiana di un futuro che ripropone il passato, che rivisita, ritrova ogni anno il passato, la resurrezione di Cristo, vorrei similmente parlare del 25 aprile. Come sappiamo, molti chiamano, ci chiamano a partecipare ad un 25 aprile collettivo, ad una manifestazione per il 25 aprile, nella quale non potremo ritrovarci fisicamente nelle strade. 25 aprile che riproponga le parole, gli slogan, le attese, le considerazioni, le speranze, che le riproponga senza corpi, o meglio con i corpi in condizione di isolamento e di confinamento. Qual è il contenuto di questa proposta che ci viene fatta dal giornale La Repubblica, ma anche da Luciana Castellina in un bellissimo intervento uscito due giorni fa sul Manifesto? Qual è il contenuto politico di questa proposta? Beh, la democrazia, il valore della democrazia, che sembra oggi sospesa, forse perduta, e che però ci riproponiamo di ritrovare, di restaurare. Bene, dico subito, a scanso di equivoci, che io intendo partecipare a quella giornata, ma non credo nella democrazia. Non credo che la democrazia tornerà. Non credo al fatto che noi ritroveremo mai quello che abbiamo lasciato, che abbiamo perduto, che ricordiamo. Quel passato mai non ritorna, ma in questo caso particolarmente dobbiamo dirlo, la democrazia che in fondo abbiamo idolatrato come fosse un valore, la democrazia non è un valore. Mente o sbaglia chi dice che la democrazia è un valore, la democrazia è un metodo, è il metodo che rende possibile la affermazione della volontà collettiva, forse un ottimo metodo, forse il migliore che abbiamo mai conosciuto, chi lo sa, ma non è che un metodo, non un valore. Ecco, quel metodo, che non è perfetto, certo, è la democrazia che ha prodotto Adolf Hitler, è la democrazia che ha prodotto Donald Trump, e dunque è un metodo altamente imperfetto, e ritroveremo noi quel metodo? Sarà quel metodo capace di fare fronte all'abisso che 40 anni di violenza neoliberale, capitalistica e finanziaria hanno preparato, all'abisso che un virus ha improvvisamente rivelato, come fa l'Apocalisse? L'Apocalisse non compie alcun gesto di violenza, si limita a rivelare ciò che vi era già prima. Questa solitudine, questo isolamento, questa paura, questo sentimento di non aver futuro che proviamo oggi così chiaramente ed esplicitamente e dichiaratamente, non è nuova. Si è preparata nell'epoca, nella lunga epoca della violenza neoliberale. Ecco, sarà capace la democrazia di aiutarci ad uscire da questa condizione, o dobbiamo noi forse pensare ad una forma nuova della relazione sociale, ad una forma più più vicina alla proliferazione che l'apocalisse virale ha scatenato, e più vicina ad un sentimento collettivo della relazione sociale? Probabilmente l'epidemia di coronavirus ha determinato l'evidenza di qualcosa che era già vero anche prima: il capitalismo è un cadavere e noi abbiamo vissuto troppo a lungo entro quel cadavere, al punto che ne siamo stati infettati, che abbiamo finito per vivere la nostra vita come una vita di eterna malattia. Ecco, uscire da questa malattia credo che comporterà l'invenzione di qualcosa di radicalmente nuovo. Le regole, le proporzioni dell'economia che abbiamo conosciuto nel passato sono regole e proporzioni che non vogliono più dire niente. Perfino il denaro, questa verità universale, questo egualizzatore universale, ha finito per essere poco più che una enunciazione, una voce, un vaniloquio. E concludo con Jorge Luis Borges, che scrive in Fervor de Buenos Aires: vaniloquio, vaniloquencia, la ciudad está en mí como un poema que no he logrado detener en palabras. A un lado hay la excepción de algunos versos, al otro, arrinconándolos, la vida se adelanta sobre el tiempo como terror que usurpa toda el alma. La città vive in me come un poema che non mi è riuscito di fissare in parole. Da un lato vi è la eccezione di alcuni versi, dall'altro, accantonandoli, la vita precorre il tempo come terrore che usurpa tutta l'anima. Ci sono sempre altri crepuscoli, altra gloria. Io provo il logorarsi dello specchio che non si placa in una sola immagine. A che questa ostinazione di configgere con pena un chiaro verso eretto come lancia sopra il tempo, se la mia strada, la mia dimora, spezzatrici di simboli verbali, mi grideranno domani la loro novità? Nuove come bocca non baciata. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo.